Capitolo sesto. Credere nella vita futura. La fede nell'esistenza della vita futura è il quinto articolo del credo islamico. Essa si fonda sull'insegnamento di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, e per questo la vita futura è verità indubitabile. Secondo il divino insegnamento, dopo la fine del mondo, Allah, rifulga lo splendore della sua luce, opererà la resurrezione di tutti gli uomini. Poi, nella sua veste di re del giudizio, Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, celebrerà il giudizio universale, nel corso del quale tutte le azioni di ogni uomo saranno prese in esame. Se la condotta nella vita terrena sarà trovata conforme agli insegnamenti e ai comandamenti divini, l'esito del giudizio sarà positivo. Se invece la condotta nella vita terrena sarà trovata non conforme agli insegnamenti e ai comandamenti divini, l'esito del giudizio sarà negativo. Nel primo caso, la buona condotta aprirà le porte del paradiso, non senza la misericordia di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Nel secondo caso, la cattiva condotta aprirà invece le porte dell'inferno. Il paradiso è il luogo della somma ed eterna beatitudine riservato nell'esistenza ultraterrena ai timorati di Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Continuamente nel sublime Corano Allah, potente egli è ed eccelso, ne preannuncia le delizie a coloro i quali, avendo creduto nell'unità, unicità ed unipersonalità divina e nella missione profetica di Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, mettono in pratica i comandamenti coranici e i precetti del profeta sallallahu alaihi wasallam nella loro vita quotidiana. L'inferno è invece il luogo dell'atroce supplizio riservato nell'esistenza ultraterrena a tutti coloro che nella loro vita terrena avranno creduto in cose diverse da quelle insegnate da Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, e dal profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, hanno praticato vie diverse da quelle indicate nel sublime Corano e nella nobile Sunna. Le pene dell'inferno sono il risultato nefasto dell'aver creduto in cose diverse da quelle insegnate da Allah l'Altissimo e dal profeta Muhammad e dall'aver praticato vie diverse da quella islamica. Continuamente nel sublime Corano, il sommamente misericordioso ne preannuncia i tormenti a coloro che rifiutano di credere nella provenienza divina del sublime Corano e nella missione apostolico-profetica di Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, i quali, non credendo e rifiutando di credere nell'unità, unicità e unipersonalità di Allah l'Altissimo, obbediscono ad altri che Allah nella pratica di una delle tante dottrine e leggi di matrice umana. Il paradiso e l'inferno non avranno mai fine e dureranno per l'eternità.